La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, questa è La Rosa Purpurea, l'ora di cinema settimanale di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, settimana molto molto intensa per quanto riguarda le uscite in sala, 15 nuovi film nei nostri cinema, uno su mille ce la fa, diceva Gianni Morandi qualche anno fa, qui la percentuale sarà un attimino più ricca, ma mica tanto, perché davvero non c'è molto molto spazio, anche perché in sala stanno continuando ad andare bene Sorrentino, Fury, a dispetto di ogni nostro pronostico, San Andreas, che se la sta cavando benissimo. E quindi noi andiamo a raccontare però quelli che sono i film che potranno inserirsi in questa in queste vette del botteghino, e anche quelli che meritano di essere visti magari anche in poche sale. Cominciamo con un film che rispolvera alla grande il cinema bellico della Seconda Guerra Mondiale. Siamo in Germania, siamo nell'aprile del 45, una guerra che si protrae ormai da anni, un intervento, quello americano in Europa, che chiaramente costa sangue e sacrificio, un uomo solo al comando, potremmo dire, un ufficiale delle forze armate americane, che ha il volto di Brad Pitt, e questo, come dire, aiuta anche nella vita, forse anche nella guerra, che con un manipolo di soldati, con un carro armato in inferiorità numerica, si butta dietro le linee nemiche e ne combina di ogni. Sentiamo la clip e ne parliamo. La guerra non è finita. I morti non sono finiti. Ho iniziato questa guerra ammazzando tedeschi in Africa e ora ammazzo tedeschi in Germania. Stanno arrivando! Quanti sono? Circa 300! Non siamo mai scappati, non lo farò ora. Io resto qui a combattere. Gli ideali sono pacifici. La storia è violenta. C'è da dire che sicuramente War Daddy, il soprannome di questo personaggio, ha una certezza, ammazza tedeschi, l'avete sentito sia in Africa che adesso in Europa. È con noi Boris Sollazzo, che fortunatamente per lui non è tedesco, e quindi lo salutiamo ancora vivo. Ciao Boris. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sei scampato dalle Fury di Brad Pitt? Diciamo che sono anche abbastanza giovane da poter essere scampato tranquillamente a tutte quelle cose, e quello anche tu, per fortuna, insomma, grazie a Dio la Seconda Guerra Mondiale e in generale conflitti così sanguinosi sono parte del passato, purtroppo ce ne sono altri di cui si è ampiamente parlato al cinema, e infatti fa strano che Fury, con David Dyer che scrive e dirige spesso di cameratismo in divisa, anche quando quella divisa non viene portata, viene portata in maniera molto particolare, vada a riprendere un grandissimo classico, no? Gli americani contro i nazisti, voglio dire, da Capitan America a qualsiasi film bellico fatto fino soprattutto agli anni 70 era un qualcosa che costantemente si ripeteva, era quasi uno strumento di propaganda anche politica, e questo è il sentimento di straniamento che tu hai nei primi minuti di Fury, l'impressione che tu ti ritrovi davanti a qualcosa che hai già visto, ti ritrovi davanti a qualcosa che sia sorpassato, e continui a vederlo perché Brad Pitt ha il suo carisma, perché il cast è buono, perché il film è solido e quindi comunque, soprattutto perché ama il genere, non tradisce le aspettative, e man mano però che il film va avanti ti rendi conto che c'è altro, ti rendi conto che da film che appare antiquato, superato, sorpassato, si trasforma invece in un film che è metafora universale della guerra, perché dall'insieme, dal grande conflitto nazisti contro liberatori, diventa sempre più stretto, sempre più stretto, sempre più stretto, finché non ci si trova, tu spettatore, con Brad Pitt e tutti gli altri, dentro quel maledetto carro armato, che diventa tutto il tuo mondo, diventa tutto il loro mondo, e anche se la guerra forse sta finendo, bisogna comunque combattere, perché la guerra ha la sua irrazionalità estremamente logica, tragica, eroica, questo vale da 300 con gli spartani che in chiara minoranza decidono di affrontare i persiani, e vale anche per i combattenti di Fury che decidono sostanzialmente di affrontare un intero esercito da soli, votandosi a un sacrificio tanto insensato quanto nobile, pur in una nobiltà che questi combattenti non hanno, perché sono ruvidi, sono rudi, possono anche non piacere, sono guerrieri veri, guerrieri che fanno cose che non ci piacciono, però la grande vittoria di David Dyer è proprio quella, di regalarci un posto in quel carro armato, di soffocarci, un po' come fa Kevin Bigelow in Hurt Locker o come è stato fatto in Lebanon qualche anno fa. E questa è la grande forza del film, che a un certo punto scopri quanto è bello quando pensavi che invece fosse uno dei tanti. Beh, questo insomma aiuta, perché effettivamente la Seconda Guerra Mondiale oggi raccontata come lo era negli anni 50-60 non avrebbe molto senso. Diamo un'occhiata alla classifica sulla quale dovrebbe andare a impattare il film. Fury è partito molto bene nei primi giorni, sta incassando, diciamo, due volte San Andreas, tre volte La giovinezza di Sorrentino, quindi film che comunque al botteghino ha preso nonostante il gran caldo di questi giorni. Dicevo, quindi, per quanto riguarda il box office, weekend scorso San Andreas al primo posto. Boris, noi l'avevamo smontato, però insomma l'avevo anche detto che poteva assolutamente piacere, però con un incasso da weekend piuttosto bassino, 1 milione di euro in tutto. Secondo La giovinezza, che ha superato i 4 milioni di euro di incasso globale. Terzo Tomorrowland, e poi Il racconto dei racconti al quarto posto, Matteo Garrone con incasso piccolo, però si porta avanti. Quinto posto per Pitch Perfect 2. A questo punto sentiamo come vanno le cose sulle strade, Boris, perché fra poco dobbiamo cambiare decisamente argomento e parlare di Accidental Love. La rosa purpurea. Eccoci ancora qua, La rosa purpurea, seconda parte. Vi abbiamo annunciato il prossimo film di questo weekend del quale parliamo, è Accidental Love. Lo dirige Stephen Green, anche se è alla fine di una vicissitudine produttiva piuttosto lunga. Lo interpretano Jake Gyllenhaal, Jessica Biel, James Marsden e Catherine Keener. Questo è il poker d'assi di questa commedia, la cui trama è tutto un programma. Una cameriera di provincia, Alice, interpretata da Jessica Biel, durante un incidente si ritrova ad avere un chiodo infilato nella testa. Questo chiodo provoca un paio di cose importanti. Uno, un appetito sessuale clamoroso in questa protagonista, quando si dice un chiodo fisso, forse era quello. E l'altra invece è che il suo matrimonio va un po' all'aria, perché visto che l'assicurazione che lei ha non può garantire e sostenere i costi dell'intervento chirurgico, il fidanzato, il marito, anzi, decide di rompere, appunto, il futuro marito decide di rompere il fidanzamento, perché questa donna non potrà mai togliersi sto chiodo fisso dalla testa. Insomma, come avete capito, non dovevano essere proprio al 100% in possesso delle loro qualità gli sceneggiatori, però può venirne fuori materiale piuttosto bizzarro. Non dimenticherò mai la prima volta quando pattinavi verso la mia moto, in ricchezza e in povertà. Il lobo potrebbe effettivamente causarle gli attacchi di panico, imprevedibili momenti di ira. Sai dove? Lui infia la puta! Ah! Signor Birdwell, sono una sua elettrice. Come vai a Washington? Voglio aiutare le persone in gravi condizioni cliniche che non possono affrontare le spese mediche. Sono convinta che ci ispiriamo a vicenda. C'è Boris anche in questo caso. Abbiamo parlato di Pitch Perfect prima, ne avevamo parlato molto la settimana scorsa. C'è anche in questo caso il tentativo di fare una commedia che ha degli elementi da fuori di testa, degli elementi di surreale veramente molto spinti. In questo caso, tra l'altro, un film che, come dicevo prima, ha avuto un percorso produttivo molto molto lungo. Doveva girarlo David O. Russell, tanto per fare un titolo, American Hustle, e poi doveva chiamarsi, tra l'altro, Nailed, inchiodato. E questo era anche abbastanza esaustivo. Poi però le cose sono andate a catafascio, il film è rimasto su uno scaffale, adesso è stato ripreso 7 anni dopo, arriva nelle sale. Con quale forza Boris riesce nell'impresa, insomma, di riuscire a tenere in piedi una storia così strampalata? La storia strampalata è quella che riguarda tutto il film, come hai detto tu, è iniziato 7 anni fa. Di fatto sembrava sepolto 5 anni fa. David Russell lo ha odiato con tutto se stesso, perché non è riuscito a finirlo, non è riuscito a farlo, e addirittura nel momento in cui esce e trova una sua vita pretende lo pseudonimo. Quindi c'è materiale per definirlo fuori di testa anche per quanto riguarda l'aspetto produttivo. Accidental Love è la dimostrazione intanto che David Russell ha diversi chiodi fissi. l'amore per storie d'amore, scusate il gioco di parole, fuori dal comune, che siano truffatori, che siano mezzi matti, che appunto sia tra un uomo apparentemente normale ma un po' cinico e una donna con un chiodo fisso nel vero senso della parola. C'è anche l'aspetto del chiodo fisso di un'America che è ingiusta, un'America a cui si può reagire solo attraverso il sottile fascino della follia, che è quello che prende Jessica Biel. Quindi è un film che, per quanto possa Russell disconoscere, è profondamente suo. Certo che si vede il fatto che sia un film vecchio suo, cioè che non c'è quella maturazione. È abbastanza straniante trovarlo adesso, perché il sentimentalismo è estremamente più classico, e dall'altra parte c'è anche quella voglia di surreale, di comicità surreale che c'era molto tempo fa, ai tempi di Free Kings. È un film con molti problemi di ritmo, è un film che sconta una post-produzione così tormentata, quindi chiaramente nel montaggio, nella scrittura è discontinuo, però ha anche diverse cose interessanti. Per esempio, una Jessica Biel che non avremmo mai immaginato così straordinariamente in palla. È sempre sembrata un'attrice mediocre, una donna bellissima, qui è una donna bellissima, ma è castigata, tra l'altro, a differenza di altre occasioni, è un'attrice clamorosa, perché lei davvero riesce a sostenere un personaggio che è quasi impossibile da sostenere. E c'è una polemica contro il sistema americano, a partire dall'Obamacare. Non è un caso, tra l'altro, che il film muore la prima volta poco prima che l'Obamacare sia approvato, insomma, e quindi parli di un'America lontana, di un'America che ha quell'ingiustizia totale dell'impossibilità di essere curati se non assicurati. In parte, appunto, il Presidente degli Stati Uniti ha risolto questa cosa. E quindi è un film strano, è un film discontinuo, è un film in parte non riuscito, ma è anche un film, secondo me, da vedere per gli amanti del regista, per avere un quadro complessivo della sua arte, ma anche perché esce fuori da molti canoni in maniera molto interessante. Quindi bisogna, secondo me, avere la condiscendenza che si deve a un film che ha avuto tanti problemi e l'interesse per tanti talenti messi insieme che forse potevano avere miglior sorte, ma che comunque ci regalano qualcosa di molto particolare. E allora, questo per quel che concerne questo film Accidental Love nei cinema italiani. Noi a questo punto ci prendiamo qualche secondo per giocare insieme. Cominciamo ad ascoltare la prima delle due tracce del film misterioso di oggi. Come accidenti siamo finiti qui, in questa fogna. Eri una star del cinema, ricordi? È uno degli inizi più belli del cinema recente. Lo vogliamo far risentire? Come accidenti siamo finiti qui, in questa fogna. Eri una star del cinema, ricordi? Ecco, aiuto doppio oggi, perché così arriva l'estate, siamo tutti più buoni, no, quello era Natale, ma fa niente. E allora, se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci il titolo del film, il vostro indirizzo alla Rosa Purpure a @radio24.it. Più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia per provare a vincere uno dei due Blu-ray che aspettano due nostri ascoltatori particolarmente cinefili. E allora spostiamoci ancora in altro territorio, scontro fra generazioni o incontro fra generazioni che domina e pervade il film È arrivata mia figlia. Signora, mia figlia sta venendo a San Paolo per stare con me. E da quanto tempo è che non la vedi? Ormai 10 anni. Non vedono l'ora di conoscerti. Ma stiamo nella stessa casa dei tuoi padroni. Stai calma. Mi stai portando in casa d'altri. Loro non sono i miei padroni, va. Neanche guardarla alla piscina. Tu non ci sei mai entrata? Secondo te entro nella piscina dei padroni? Lo senti? Sto dentro la piscina. È una una storia di un incontro, davvero, come vi dicevo. Siamo a San Paolo del Brasile, una donna che lavora da anni come bambinaia in una casa di ricchi facoltosi, avete intuito anche da questa clip, da questo sketch della piscina, la cui vita viene mandata all'aria positivamente dall'arrivo di una figlia che ritrova dopo 13 anni. La ragazza è cresciuta da alcuni parenti nel nord del Brasile, arriva e quando tutti si aspettano che nulla possa turbare gli equilibri di questa casa così azzimata, ecco che arriva questa ragazza che insomma fa capire alla mamma che il tempo è passato e che ora, se non di fare una rivoluzione, almeno di cambiare se stessi, di provare a guardare con rispetto ma con meno riverenza quello che gli altri hanno prima che quello che gli altri sono. Boris, una bella storia, una bella favola mi verrebbe da dire, questo film di Anna Mulliert con Regina Cassé, Camila Mardiglia, che ci regala un po' uno spaccato della modernità contro la tradizione nel Brasile contemporaneo. Altro che, un gran bel film, apprezzato molto a Berlino. Anche qui, se vogliamo, c'è una cameriera a cui la vita cambia, no? Non è un chiodo, ma è comunque un proiettile ben assestato, questa figlia che aveva affidato a un parente lontano e che ritorna, ormai donna formata, troppo lontana da lei geograficamente, psicologicamente, socialmente. Lei è tutta la sfortuna che ha avuto questa donna anziana che decide, che ha sprecato la sua vita, tra virgolette, l'ha vissuta onestamente, l'ha vissuta con dignità, ma che comunque ha portato la sua vita per servire altri, e di fronte si ritrova una figlia a cui ha dato, rinunciando a lei, tutte le opportunità. Ha avuto la possibilità, questa giovane ragazza, di essere iniziata a un pensiero critico, a una visione più strutturata della vita, ha avuto la possibilità di apprezzare che cos'è la libertà, perché Regina Cassé altro non è che una schiava moderna, anche se ha scelto lei per necessità di portare avanti questa vita. Si incontrano, c'è qualcosa che li unisce, che è il sangue, che è anche un carattere, una visione del mondo comune, ma Regina Cassé non lo sa, non sa che donna è, e lo scopre attraverso questa figlia. C'è una scena bellissima di lei che scopre che la madre non ha mai approfittato delle comodità della splendida casa che cura, e dimostra alla madre che rompere una regola, rompere un conformismo può regalare una gioia effimera, piccola, ma entusiasmante. E piano piano, da quel momento, le due donne si avvicinano, si apprezzano, si capiscono, e quella rivoluzione di cui parli proprio col ritmo di una fiaba, però una fiaba molto reale, qualcosa che può succedere e deve succedere, si porta avanti con gentilezza, con delicatezza, e con una Regina Cassé che interprete di lunga esperienza teatrale, anche cinematografica, ma che mai aveva avuto la possibilità di avere un ruolo così preponderante, così forte e così completo, si dimostra straordinaria, con un talento pazzesco. E dall'altra parte questa figlia, con un viso bellissimo, con un brio straordinario. Ecco, se vogliamo, questa settimana è la settimana delle giovani donne piene di grinta e sorprendenti, riesce a entrarci nel cuore. Quindi È arrivata mia figlia è davvero un film notevole, uno di quei film che fanno bene anche d'estate, non solo perché c'è una piscina che ti rinfresca anche solo a guardarla, ma perché ti dà quell'ottimismo che non viene dato a piene mani, ma che viene comunicato con intelligenza, con candore, e che ti fa uscire con un sorriso, anche se poi sulle spalle ti porti anche la sofferenza che ha portato tutta questa bellezza. Devo dire, è veramente un film notevole, di quelli che ti accarezzano il cuore. Parleremo di un altro profilo di donna molto grintosa fra poco con Boris Sollazzo. Nelle Regole del Caos c'è una Kate Winslet, anche lei su questa onda. Boris, rimani con noi, fra poco saremo ancora insieme, parleremo di cinema comunista con Marian Vujovic della Cineteca di Belgrado, e poi ancora cinema con Boris Sollazzo e con Le Regole del Caos. State ascoltando un programma offerto da Creo Kitchens. Finalmente la cucina di qualità, ora alla portata di tutti. Gruppo Lube. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma. Fra i film, i 15 film che arrivano nelle sale cinematografiche italiane in questo fine settimana, ce n'è uno che è sicuramente uno dei più bizzarri, a partire dal titolo. Sentitela: Cinema Comunisto, con la K davanti e la O finale. Sembrerebbe quasi un gioco di parole, invece il gioco di parole c'è, ma racconta una passione, racconta un'immagine, racconta un paese attraverso frammenti di cinema. Stiamo parlando della Jugoslavia di Josip Tito, che oltre a fare più o meno il presidente barra dittatore di un paese per decenni, era anche un cinefilo incallito, amava la follia e subiva il fascino di personaggi come John Wayne, Kirk Douglas, Richard Burton. Aveva visto tantissimi, migliaia di film facendo il proiezionista, prima appunto di fare la carriera politica che poi fece. Tutto questo, cioè tutta la storia di una passione per il cinema che diventa potere politico, che diventa immagine di un personaggio che la sfrutta per possedere, tenere le redini di una nazione, è la storia raccontata in questo film che si intitola appunto Cinema Comunista ed è diretto da Mila Turalić. Bili smo jedna od vodećih kinematografija u Evropi. Film è bio jedno moćno oružje propagande e tako dalje. I suoni originali, perché il film viene distribuito in lingua originale con i sottotitoli, ma un film che veramente, se avete la fortuna di essere in una delle sale, in una delle città che lo programmano, per esempio a Milano il Cinema Beltrade di Via Auxilia, andatelo a vedere perché veramente non ve ne pentirete. Noi, per parlare del tema che domina un pochino questo film, siamo in collegamento con un amico di questa trasmissione ed è sottoscritto Marijan Vujović, che è il direttore del Museo della Cineteca Jugoslava di Belgrado, una delle più importanti del mondo, fatemi dire, non solo d'Europa. La Cineteca di Belgrado conserva centinaia di migliaia di pellicole, di film di tutto il mondo, anche di capolavori del cinema italiano ed europeo in generale, e che parla un perfetto italiano. Quindi salutiamo Marijan Vujović alla Rosa Purpurea. Ciao Marijan. Ciao Franco. Allora Marijan, raccontaci un po' quanto restituisce non solo della persona e della personalità di Tito, ma anche del suo modo di usare il cinema, perché ne aveva scoperto la enorme potenzialità di propaganda, questo film, questo Cinema Comunista. Il film restituisce molto, anche forse più di quello che uno si potrebbe immaginare, perché veramente guardandolo qualche anno fa, quando è stato presentato in anteprima qua a Belgrado, è stato veramente, anche per me che lavoro presso la Cineteca, è stato veramente come una macchina del tempo tornare indietro e vedere tutta la produzione, la posizione anzi del cinema che esisteva nella Jugoslavia socialista. E come avevi già detto tu, Tito era un noto cinefilo. E nei dati che poi sono andati a scoprirsi sono state registrate circa una media di 400-450 proiezioni private all'anno, quindi lui si guardava un film o due al giorno per decenni, quindi è possibile immaginare la quantità di film e l'appassionamento al cinema che aveva. Ecco Marijan, però questo Cinema Comunista, citando il titolo del film, era anche un grande cinema, cioè nella Jugoslavia di Tito, e quindi non aspettando la libertà, l'Occidente, che poi è un Occidente che, come dire, l'ex Jugoslavia ha sempre vissuto con una sua posizione particolare, non abbracciandolo a pieno, e a volte viene da dire anche per fortuna, insomma, ha mantenuto delle peculiarità molto forti, però è stato invece proprio sotto il regime di Tito che il cinema jugoslavo ha tirato fuori i gioielli più incredibili, perché ha saputo mettere a frutto una enorme categoria di sceneggiatori, di registi, di attori, una scuola di cinema come quella di Sarajevo. È stato un grande cinema quel cinema jugoslavo. Senz'altro il cinema, lui probabilmente l'aveva capito dall'inizio che il cinema sarebbe stato una, sia per usi interni che quelli esteri, una veramente forte strumento sia di propaganda ma anche di valorizzazione della vita, del regime, insomma della storia recente, quella che stavano creando della Jugoslavia in quell'epoca, e quindi ha fatto costruire praticamente a Belgrado l'Avala Film, a Zagabria e l'Adran Film, e poi un po' in tutte le repubbliche dell'ex Jugoslavia, dei centri, degli studi cinematografici che veramente producevano un gran numero di film sia jugoslavi, ma facevano anche molte coproduzioni internazionali. Per citare alcuni c'era tipo Alberto Latuada, Sam Peckinpah, Nicholas Ray, Orson Welles, che giravano all'epoca. Infatti io qualche anno fa ero anche il direttore di produzione di un film che parlava proprio di Nicholas Ray e dei suoi 2 o 3 anni vissuti nella Jugoslavia di quel tempo, nel regime di Tito, dove dopo i successi di Gioventù Bruciata era un grandissimo nome, che era assieme a Orson Welles, erano nello stesso periodo in Jugoslavia. Ecco Marian, un'ultima cosa: proprio oggi, questo sabato 6 giugno, parte a Belgrado un festival a cui tu tieni molto e di cui sei l'anima organizzatrice. C'è un film tutto dedicato alle pellicole che possono incendiarsi, incredibile, ma cioè, ci sono ancora queste pellicole di nitrato d'argento che prendono fuoco, e perché hai voluto dedicare un festival a questo tipo di pellicole? Il festival alla Cineteca Jugoslava l'ha inventato nel 1999 dopo i bombardamenti, perché per mesi temevamo moltissimo per il nostro fondo di cinema nitrati, che è uno dei più grandi al mondo. Abbiamo oltre 25.000 pellicole su cinema, su film nitrato, che è incendiabile di per sé, quindi non è che gli serva anche del fuoco per iniziare a bruciare. Ed è stata un'idea perché poi la sala della Cineteca Jugoslava, dove tu sei stato anche e hai visto le proiezioni, è una delle poche al mondo dove abbiamo le proiezioni pubbliche di pellicola nitrata, non troppo spesso ma diverse volte all'anno, e il festival è cresciuto, siamo alla 17ª edizione, adesso la maggior parte sono pellicole o restaurate su 35 mm o su DCP, come negli ultimi anni è diventato non è anche una tendenza ma una realtà. Ma comunque, tra tutte le proiezioni sia di film restaurati, ci sono anche un paio di proiezioni di pellicole nitrate, e devo dire che molti dei nostri colleghi di diversi archivi, non soltanto europei ma di tutto il mondo, che vengono a trovarci ogni anno, anche dopo 20 o 30 anni di lavoro in un archivio, assistono per la prima volta a una proiezione pubblica di nitrate, ed è veramente una cosa interessante. Senti, dammi un paio di titoli di quelli imperdibili di quest'anno. Quest'anno facciamo di Charles Lawton, The Night of the Hunter, che è un film con Robert Mitchum che non è stato mai presentato in Jugoslavia. Facciamo in collaborazione proprio con una delle cineteche italiane, e devo dire che veramente con tutte le cineteche italiane abbiamo una collaborazione fantastica ogni anno, e non soltanto per questo festival ma su diversi lavori anche di restauro. Questo è un film che abbiamo ricevuto dalla Cineteca del Friuli di Gemona, ed è praticamente il primo film di Orson Welles, Tomas Johnson, che è stato ritrovato 2 o 3 anni fa in Italia proprio. E poi abbiamo anche uno dei primi film di Michael Curtis, il direttore, il regista di Casablanca, e uno dei suoi primi film del 1914, quando ancora viveva in Ungheria. E insomma, ci sono gli estremi per prendere l'aereo, andare a Belgrado e vedersi questo straordinario festival di cinema nitrato. Grazie Marian Vujovic, un abbraccio e ci sentiamo presto. Grazie Franco. Abbiamo parlato di cinema comunista, io sottolineo anche che anche al cinema postmodernissimo di Perugia, sennò poi gli amici umbri s'arrabbiano. Abbiamo ancora una traccia del nostro film misterioso da farvi ascoltare. Perché non ti metti le ali e il costume da uccello? Sei un geltrone! La Rosa Purpura è a @radio24.it, titolo del film, il vostro indirizzo, provate a vincere una delle 2 copie in Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana. Boris, sei con noi? Sì, assolutamente. Abbiamo parlato di cinema comunista e invece facciamo un salto nel 600 per raccontare un'altra pellicola in uscita. Abbiamo detto di questo ruolo di Kate Winslet, di donna forte e coraggiosa, nella fine degli anni 600 francesi. Un minuto per raccontarci un po' questo film che si intitola Le regole del caos. Beh, se vogliamo, Le regole del caos forse è il modo per accarezzare la megalomania di Alan Rickman, perché lo dirige con una discreta ambizione e poi si autoassegna la parte del Re Sole, che credo sia il sogno di ogni attore e regista. Fuori dagli scherzi è un film molto interessante, un film che però non ha il coraggio di bastare a se stesso, perché la favola, se vogliamo, è abbastanza semplice. Lei deve curare un giardino, si avvicina a un grande artista con cui dovrà collaborare, lui è un grande nobile con i suoi capricci, i suoi cinismi, lei è una donna fortissima, non nobile, straordinariamente dotata, fuori dal contesto di Versailles, non porta vestiti con corpetti perché lei deve lavorare, ha una grande tragedia alle spalle, lui invece ha una grande malinconia presente, questa doppia sofferenza in qualche modo li avvicina. Bastava il racconto di Versailles come scacchiera sociale, il racconto di Versailles come voglia di portare nella narrazione un ideale di nobiltà che era di fatto completamente insensato, ma che ben è fotografato da delle pantofoline di seta che finiscono nel fango, che racconta un po' la storia di quella nobiltà, ma anche il coraggio incosciente di vivere la vita in quella maniera. E invece Rickman mette dentro anche queste tragedie personali che invece di rendere più profondo il film lo appesantiscono, perché il gioco sta proprio nell'esercizio di stile, nella bravura di Kate Winslet, che è straordinaria, e lasciatemi dire di uno Stanley Tucci pazzesco nella parte del Duca d'Orléans. Credo che si sia divertito come un matto, sicuramente fa divertire noi, ed è uno di quei ruoli che tutti gli spettatori fanatici di un attore vorrebbero vedere da quell'attore, e secondo me tutti gli attori vorrebbero interpretare. Quindi è un film interessante che forse doveva avere un po' più di coraggio, doveva essere ancora più classico di quello che era. Il palazzo di Versailles sarà il cuore del nostro regno. Chi è quella persona? È Madame de Barras, la nuova giardiniera. Questa abbondanza di caos, voi la chiamate Eden? È divertente infrangere qualche regola. Io non sono nessuno, chi posso mai interessare? Proprio perché qui tutti sono qualcuno che diventate interessante. Vostra maestà. Voi mi fate dono di questa splendida rosa, ma ditemi qual è il senso se a breve appassirà. È il destino di tutte le cose belle, Sire. Ciao Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E noi adesso andiamo a sentire come vanno le cose sulle strade. Fra poco torniamo per parlare di Fuori dal coro. Sarà con noi Sergio Misuraca e poi tutto il cinema che c'è anche in TV. La Rosa Purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea. Come promesso, un altro film italiano di quelli in sala in questo fine settimana, si intitola Fuori dal coro ed è diretto da Sergio Misuraca, una storia siciliana contemporanea con due giovani ma non giovanissimi disoccupati, due amici che cercano di destreggiarsi in mezzo alla crisi, in mezzo forse anche a occasioni che sembrano stentare ad arrivare e sembrano sempre molto molto lontane, finché un'occasione si palesa chiaramente con dei margini di rischio, come si usa fare in questi casi, sotto forma di un pacco da portare, un pacco misterioso di cui nessuno deve sapere. Quando sogno sballato, io penso che la Sicilia sia il posto più bello del mondo. Non fa niente tutto il giorno. Perché non gli dici di venire a trovare mio marito? Dovresti farmi un piccolo favore. Devi soltanto consegnare una busta e ti suggerisco di andarci in macchina a Roma. Guarda che lo slavo è uno strano. Meno ci stiamo, meglio è. Io ti ammazzo, capisci? Ti ammazzo. Pensi che per me sia divertente venire a cercarti in questo cazzo di Sicilia? Mi sono preoccupato per mio nipote. E tu? A te che ci pensi? Chiaramente l'irrompere di questo pacchetto dentro nel film funge da spartiacque. Da quel momento in poi Dario e Nicola ne passeranno di cotte e di crude, sospeso fra una comicità latente e un occhio strizzato al cinema poliziottesco italiano degli anni 70, con personaggi truccati un po' anche in quel modo. Fuori dal coro è l'esordio alla regia di Sergio Misuraca, che è in collegamento con noi. Ciao Sergio. Ciao, ciao, buonasera. Grazie di essere qui con noi alla Rosa Purpurea. Allora, raccontaci un po' come nasce questa tua passione per il fare cinema, che so che insomma ce l'hai messo tanto, hai dovuto passare anche un oceano, andata e ritorno, per riuscirci, e questo amore che esce dal tuo film, chiaramente, per quella stagione incredibile del cinema italiano d'azione. Sì, la passione per il cinema nasce parecchio tempo fa. Io ho fatto un viaggio a Los Angeles, dove chiaramente lì è cresciuto ancora di più l'amore per questa arte. Però sono dovuto tornare in Sicilia per realizzare il film. È passato un bel po' di tempo, però il tempo che ci voleva. Ecco, raccontaci un po', c'è questo aneddoto molto curioso di questa tua passione per De Niro, questa tua ammirazione per De Niro, che poi diventa sostanzialmente un tuo cliente. No, io divento un suo dipendente. Ah, ecco, addirittura il tuo proprietario, sì, il tuo principale. Io sono andato a Los Angeles, chiaramente quando arrivi a Los Angeles respiri quella di cinema, avevi il desiderio anche di entrare in questo, però poi ti devi scontrare con la realtà, che è quella di sopravvivere, pagare l'affitto. Quindi ho iniziato a lavorare nei ristoranti e poi dopo qualche anno ho avuto la possibilità di lavorare in un ristorante dove lui era uno dei proprietari. E lo hai conosciuto, immagino? Sì, diciamo che ho avuto la possibilità, la fortuna di conoscerlo. Chiaramente non uscivamo assieme la sera. Lui era uno che veniva lì spesso e cucinavo per lui. Diciamo che qualche volta abbiamo avuto la possibilità di chiacchierare, tra virgolette. Mi chiedeva i piatti e magari diciamo che ero molto intimorito dalla sua presenza. Senti, tornando al film, come hai lavorato a questo clima che hai cercato di costruire? Un clima proprio da pomeriggio estivo siciliano, no? Con quel velo di pigrizia che ammanta tutto il film e che ne costituisce anche un po' una cifra. Sì, diciamo che si respira molta sicilianità nel mio film, che è un materiale che conosco bene, visto che sono sicilianissimo e conosco bene la realtà. Si è voluto fare un film cercando di non utilizzare i classici stereotipi di mafia. Chiaro che nel mio film c'è malaffare, c'è la pigrizia siciliana, ma c'è anche tanta bellezza della Sicilia. Ecco, infatti non ho citato apposta i film sulla mafia quanto il genere poliziottesco italiano, no? Quel genere anni 70 che aveva attori come Maurizio Merli o registi come Fernando Di Leo. Le citazioni, sì, le citazioni ci sono. Ma il film è chiaramente, io non ho studiato cinema, però io ho studiato il cinema guardando tantissimi film. Io sono un appassionato di cinema, quindi sono cresciuto con quel tipo di cinema. Poi anche a Los Angeles ho avuto la possibilità proprio di farmi una cultura diversa vedendo film in lingua originale, che ho apprezzato molto. Cioè l'idea proprio di vedere l'attore parlare con la propria voce ha una forza maggiore. Sì, nel mio film ci sono tutte le mie passioni per quel genere di cinema e ci sono chiaramente molti riferimenti cinematografici. E allora, fuori dal coro, nelle sale cinematografiche, molte in Sicilia, poi è presente a Roma, ma insomma piano piano il film potrà anche godere di una distribuzione più ampia. Noi ringraziamo Sergio Misuraca, al lupo per Fuori dal Coro. Grazie, buonasera. Misuraca, noi andiamo a risentire un frammento di quelli che vi avevamo seminato la scorsa settimana. Un nesso mannino bada la mente a Madonè. E te me lo vuoi sapere? Tu solo sapevi non erano i picciotti. E allora si trattava del film Salvatore Giuliano, era il nostro game della scorsa settimana, con questo avevamo giocato con il film di Francesco Rosi del 1962, uscito recentemente in Blu-ray, in un'edizione che adesso vi racconteremo. Hanno indovinato per primi e hanno vinto Franco Cipriani di Padova e Rosaria Marinaccio di Roma. Saranno loro a ricevere a casa il Blu-ray di questo Salvatore Giuliano, di questo classico del cinema d'impegno civile italiano, che ci racconta Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, parliamo di uno scandaglio antiretorico e antiepico dentro al mistero del bandito Giuliano, della strage di Portella della Ginestra e dentro quel rapporto che lega il potere con la mafia, per uno degli esempi più alti del nostro cinema. Una sorta di inchiesta brechtiana capace di ridisegnare il concetto di cinema civile. Un Blu-ray con master proveniente dal restauro della Cineteca di Bologna, un restauro recente, quadro pulito con dettagli decisamente sorprendenti considerando che stiamo parlando di un film del 1962, una discreta spazializzazione del suono e un buon pacchetto di extra, tra cui un'intervista allo storico Francesco Renda. E allora, questo era il nostro game della scorsa settimana, Salvatore Giuliano in Blu-ray. A questo punto invece andiamo a dare un'occhiata ai palinsesti della prossima settimana, e quando io incontro Michele Haneke, che tu lo sai Giulio, io mi fermo e ti dico che dobbiamo parlare del Nastro Bianco, che passa su Rai Storia alle 21:40 di domenica. Sì, ci fermiamo tutti, siamo nella Germania del 1913, in un villaggio a nord dell'alba della guerra mondiale, dove accadono una serie di eventi decisamente inquietanti, sevizie, attentati e omicidi. Scoprire colpevoli di soprusi però si rivela arduo, forse meglio, è un problema di coscienza, perché come in Niente da nascondere Haneke dimostra l'incapacità dei genitori e soprattutto anche quella degli spettatori di riconoscere i reati dei figli dei veri colpevoli e dunque anche di accettare le proprie responsabilità. È un film che è uno scacco allo sguardo, un saggio devastante sul concetto di autosoluzione, una sorta di sciarada sulla conservazione del male in un bianco e nero abbacinante. Ambientata negli anni 10 del secolo scorso, e quindi, come dire, questa ricerca del responsabile e a volte forse anche del capro espiatorio che non è assolutamente stata scacciata dalla nostra società. Spostiamoci a martedì, Giulio, perché a proposito di capolavori c'è L'Uomo di Paglia di Pietro Germi. Sì, su Rai 3 alle 10:10 di mattina, quando la moglie è in vacanza per la convalescenza del figlio, un operaio specializzato brucia la passione con una giovane vicina di casa. Al ritorno della consorte, l'amante si suicida. Il problema della solitudine in famiglia, della dimensione disperata dell'individuo nella rete degli affetti, non è solo una questione del cinema borghese, e Pietro Germi l'accoglie all'interno della dimensione della classe operaia, con un tono secco, tanto struggente quanto più escare. È veramente uno dei migliori film dell'autore, di cui, se fate attenzione, la Rai sta proponendo una serie di opere in programmazione. E allora, Pietro Germi, quindi da seguire anche attraverso la televisione, innanzitutto con questo L'Uomo di Paglia, Rai 3, ore 10 del mattino di martedì. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, non mi resta che ringraziare Grazia Gale in redazione, Andrea Roccabella in regia, darvi appuntamento alla prossima settimana. Noi per tutta l'estate non ce ne andiamo, tutto il cinema che c'è qui su Radio 24. Alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisti.